i santi ci dicono, la vita che abbiamo è breve. Fosse anche fatta di alcune decine d'anni, cosa volete? Sono pochissimi che arrivano a oltrepassare i 90 anni, i 100 anni. In certe province, basta osservare l'ultimo censimento, supponete una provincia di 1 milione di cittadini, sì e no che 10 hanno valicato i 100 anni. E cosa sono 100 anni? 10 decine d'anni, 10 decenni, 10. E quanti sono che valicano appunto i 100 anni? Come vi ho detto, pochissimi. Un certo numero valica i 90, un certo numero, più vistoso, valica gli 80, ma la media della vita umana sulla Terra oggi è dai 42 ai 45 anni, la media. Vuol dire che molti muoiono prima, ah sì, moltissimi bambini ancora muoiono prima di toccare i 7 anni, e molti muoiono prima di sposarsi, prima di arrivare a quell'età nella quale ci si sposa, moltissimi. I santi hanno sperimentata la brevità della vita, perché i santi hanno vissuto la nostra stessa esperienza, nati, cresciuti e morti. E la vita è stata come Dio ha stabilito, fino ai particolari. Cosa ci dicono? Non andate a rincorrere il vento, non sciupatelo il tempo, non gettatelo via per un pugno di mosche. Siate persone concrete. Che lezione ci danno i santi? Ed è la prima, sapete, questa qui. Io che ho avuto da che fare con persone sante, e anche adesso ne conosco, vedo che spendono bene il tempo della loro vita. Non sempre hanno piena salute, non sempre gli affari vanno bene, però persone che stimano il tempo, lo apprezzano il tempo, più che il denaro, più che l'oro. Tempo e vita per noi sono un tutt'uno, tempo e vita. Quanto ha vissuto quello? Si dicono gli anni. Si dà la misura del tempo. Quello ha vissuto 15 anni, quello ha vissuto 40 anni, quello ha vissuto 80 anni, quello ha vissuto 99 anni. E tutto è passato. Pochi o molti passano in un baleno. E perciò, amici cari, quanta stima del tempo, perché io se avessi tanto denaro, tanto, avessi una montagna di monete d'oro, potrei anche sciuparne qualcuna, vero? Prendemi il capriccio di sciuparne, ma qui si tratta di poche monete d'oro, cioè di un tempo che è misuratissimo. E quando uno ha pochi soldi in tasca, prima di spenderli ci pensa bene. Supponete di avere in tasca 10.000 lire e dover pensare a colazione, pranzo e cena vostro e magari anche di qualche familiare. Che ci fate con 10.000 lire? Oh, se di queste 10.000 lire voi ne pigliaste 1.000 da buttare sul fuoco, dico, ma sei matto? Hai appena 10.000 lire in tutte le tue tasche, 10.000 lire, e ne butti 1.000 al fuoco. Ma se ne avessi a bizzeffe, capisco, qualche stranezza, qualche scherzo, qualche capriccio, ma hai appena 10.000 lire e vai a buttarne via 1.000. Si può sfamare uno che lì che boccheggia dalla fame, con 1.000 lire, li comprerai mezzo chilo di pane, una pizza, qualche cosa che si riprenda. Tu lo butti sul fuoco. Bene, amici, il tempo vale molto più che il denaro, molto più che le monete d'oro. Il tempo. E ci accorgeremo quando saremo vicini al tramonto. Peccato accorgersi così tardi. Quanta gente sciupa il tempo e quanto al tempo è annesso e connesso. Salute, forze, anche mezzi di fortuna. Perché quando si sciupa il tempo, si sciupa tutto quello che è annesso e connesso, è in crisi. Il tempo è la base su cui noi possiamo contare. La vita è legata al tempo, il tempo è legato alla vita. Amici, la vita è un valore immenso. Che poi sia lunga o sia breve, ha un valore immenso la nostra vita. Vedete che Domenico Savio, un ragazzo di 15 anni non compiuti, raggiunge le vette più alte della santità e del paradiso. Don Bosco ci arriverà dopo alcuni decenni. Alla fine, conta che cosa? Aver speso bene il tempo, aver speso bene la propria vita. Cristo, figlio di Dio, non campa più di 33 anni qui sulla terra. Che grande lezione questa! Voleva dirci, guardate che non tutti camperete un secolo, non tutti camperete mezzo secolo. Io, 33 anni, l'autore della vita, 33 anni. Quando muore un uomo a 33 anni, si dice, oh, povero, così giovane, così giovane. E il Signore non dice così giovane, così giovane. La provvidenza divina ha stabilito 33 anni, cerca di viverli intensamente questi 33 anni. E per te sarà come averne vissuti, no 33, ma 300, ma 3000. Ah, per il Dio i secoli e i millenni contano come il giorno di ieri che è appena passato.